buongiorno, domenica 24 marzo 2013, 76esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. In studio oggi per voi Camilla Lattanzi, Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci. Non riuscirai ad averlo. Oggi torniamo a parlare della brutta vicenda che riguarda la provincia di Siena con l'autorizzazione concessa da questo ente alla caccia in tana delle volpi. Ne abbiamo parlato giovedì scorso, torniamo su questo argomento che ha scatenato le proteste degli animalisti. Ieri c'è stata una manifestazione a Siena facendo un incontro da vicino con questo animale così poco conosciuto. Parleremo poi di visoni, di un'incursione, di una investigazione sugli allevamenti di visoni nel nostro paese e vi proporremo anche un frutto della nostra visita alla Fiera del Consumo Critico di Milano Fa la Cosa Giusta, dove abbiamo incontrato una interessantissima piccola casa editrice che anche in futuro sarà presente nella nostra trasmissione. E poiché la Pasqua tragicamente si avvicina, la Pasqua con il suo portato orribile di morte, con la strage degli agnelli, vi proporremo un menù speciale, molto speciale, grazie alla nostra Sara Razzoli, che permetterà a chiunque di affrontare questa festività e i tradizionali pasti che l'accompagnano senza nuocere a nessuno, con piatti gustosissimi ma rigorosamente cruelty free. Proprio un amore di ragazzino. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Walking across the city room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes as the sound of motor cars. È un animale abbastanza guardingo. Ci stanno delle semplificazioni. Andiamo per categorie. La volpe è furba, è astuta. Il lupo è aggressivo, è cattivo. Potremmo fare tutto un elenco di questi animali che li abbiamo fatto simbolicamente, li abbiamo raggruppati come se un determinato aspetto del loro comportamento li potesse caratterizzare e comprendere tutti quanti insieme. La volpe astuta, la ladra dei pollai, quella che tende a portar via, no, al povero contadino, le galline che lui custodisce, tra parentesi in genere custodisce perché dopo se le mangia lui, insomma. Quindi quello che mi sembrerebbe importante sottolineare quando parliamo delle volpi, capire che ogni volpe ha una sua individualità, una sua personalità. Ci sono capitate questi anni parecchie volpi, l'anno scorso ne abbiamo ricoverate più di una quindicina. Devo dire che quando poi uno ha il modo di accostarsi per vari giorni, anche qualche volta sono stati da noi anche per qualche mese, scopre che in realtà esiste una enorme variabilità nel comportamento di questi soggetti che poi nel caso nostro li abbiamo ospitati nelle nostre strutture, prese da piccoline, magari sono state trovate abbandonate, una in particolare era stata investita da una macchina e la portavano da Roma, l'hanno portata qui, quindi l'abbiamo allevata col biberò, col latte, insomma, dato, e quindi poi abbiamo avuto il problema opposto, quella in qualche modo di riadattarla un po' alla vita selvatica, perché si era talmente affezionata che appena ci vedeva, praticamente tipo un cane o un gatto. Ci è capitato una volta, l'abbiamo messa in questa voliera e praticamente dove c'erano già delle tane fatte da altre volpi, comunque le volpi si adattano anche a utilizzare le tane dei tassi, delle istrici, quindi da questo punto di vista sono anche abbastanza opportuniste, oppure li scavano loro, sono molto abili nello scavare o nel costruirsi una tana. Praticamente questa volpe non l'abbiamo più vista, cioè pure la voliera, per quanto potesse essere grande, comunque era abbastanza perlustrabile. Vabbè, sarà scappata, non c'è più. Per scrupolo io nei giorni seguenti saltuariamente mettevo del mangiare. Il mangiare effettivamente ogni tanto spariva, però potevo anche attribuire ad altri animali, no, che venivano magari la notte a mangiare. E poi dopo, a distanza di 3 mesi, improvvisamente, andando a guardare bene una traccia di una possibile tana nel terreno, è risultata questa volpe che stava benissimo, si era resa completamente invisibile, diciamo, a noi. Ho aperto a quel punto la porta della voliera, schizzata via perché aveva una gran voglia evidentemente di andarsene. E quindi ecco, questo lo dico nel senso che quando parliamo appunto delle volpi, di questi animali in genere, bisognerebbe anche capire che esiste una notevole plasticità comportamentale e quindi la semplificazione, immaginare che ogni animale sia uguale all'altro perché tutte le volpi siano identiche, è una semplificazione eccessiva. Che cosa pensa degli argomenti che vengono generalmente presentati, come quello appunto del controllo della popolazione, oppure delle devastazioni alle coltivazioni, oppure della concorrenza rispetto ai cacciatori? Faccio sempre l'esempio di quella bella favola del lupo e dell'agnello, no? Che il lupo accusava l'agnello di inquinargli l'acqua. L'agnello stava a valle e il lupo a monte la corrente d'acqua, quindi era impossibilitato a potergli inquinare l'acqua. E l'agnello si difende, no? Dice, ma come, io sto giù? Vabbè, allora non sei te, però tuo padre. Insomma, alla fine si mangiò l'agnello, che effettivamente non aveva nessuna colpa e quel discorso dell'inquinamento non aveva ragione d'essere. Allora, quando noi diciamo le volpi sono tante, da che pulpito viene questa predica? Perché se c'è una specie che in questo momento sta intervenendo nell'ambiente con un numero eccessivo, proprio la specie umana, siamo 6 miliardi, arriveremo a 10 miliardi fra poco, siamo presenti dappertutto e andiamo a dire che le volpi o altri animali sono tanti, mi pare che si tratta sempre di piccoli numeri rispetto alla nostra presenza. Abbiamo pure avuto la cosa di inventarci gli animali nocivi, ci sono gli animali nocivi, ci sono gli animali alieni, ci sono gli animali pericolosi, sono tutto frutto di nostre strategie, quello che nascondono e che noi vogliamo di questi animali procurarci o la loro pelliccia, e questo molte volte è il caso delle volpi. Le maggiori stragi di volpi sono avvenute perché c'era la moda della pelliccia di volpe, col fatto che era un animale nocivo, l'animale furbo, l'animale che sfidava l'uomo nella sua furbizia, e allora insomma si faceva la caccia alla volpe per dimostrare che poi l'uomo c'ha sempre la supremazia. In realtà si sono fatte stragi di questi animali. Un altro motivo per cui si è fatta la caccia alla volpe era il pericolo della paura che potesse trasmettere la rabbia. Adesso effettivamente la rabbia può essere trasmessa dalle volpi, ma si è visto che più che con l'abbattimento delle volpi è possibile, attraverso anche la somministrazione di cibi con il vaccino, controllare l'espansione della malattia in maniera molto più efficace che non ricorrendo a queste forme cui si parlava prima. Quindi adesso il fatto che ritorni periodicamente questa esigenza di fare la caccia alla volpe mi sembrano che sono essenzialmente delle affermazioni puramente strumentali. Tra l'altro si ignora anche che la volpe negli ecosistemi svolge un ruolo importantissimo, per esempio nel controllo di tutte le popolazioni murine, topi insomma, che proprio nella loro strategia, nel modo in cui loro occupano l'ambiente, sono caratterizzate da essere popolazioni altamente prolifiche, quindi trovo tutte queste campagne veramente infondate e tra l'altro è anche controproducenti. Antonio De Marco, restiamo animali? Restiamo animali. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Clarity just confuses me. The lines drawn on the map of strange assembly. When there's northerners and southerners. Due piazze tematiche, una protesta ai cancelli di un allevamento, 300 firme a favore della petizione che chiede l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia raccolte a Bologna e 500 firme raccolte a Milano. Questo è il risultato di una giornata di mobilitazione in due città diverse, con la quale le associazioni Esseri Animali e Nemesi Animale hanno dato avvio alla campagna Visoni Liberi, una campagna di sensibilizzazione e di pressione per l'abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia in Italia. Nel sito www.visoniliberi.org troverete i documenti dell'investigazione, cosa può fare ciascuno di noi per attivarsi utilmente, la petizione da firmare e un toccante diario in cui gli attivisti entrati negli allevamenti raccontano le loro emozioni. Sono al telefono con Lorenzo Loprete, attivista della campagna Visoni Liberi, una campagna nata in collaborazione tra due realtà animaliste specializzate in investigazioni e inchieste, Nemesi Animale, che ha come baricentro la Lombardia, e Essere Animali, che invece è nella zona dell'Emilia Romagna. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti. Abbiamo voluto lanciare una campagna con la quale vogliamo promuovere a livello nazionale una legge che vieti completamente l'allevamento di visoni, proprio perché crediamo che sia giunto il momento di prendere atto del fatto che la maggior parte delle persone è contraria a questo tipo di allevamento. E basandoci su questo, non solo vogliamo ottenere questo risultato concreto, che sarebbe un risultato storico importantissimo secondo noi anche a livello europeo per poter condurre una simile legge che vieti l'allevamento su tutto il territorio europeo, vogliamo anche poi ampliare la coscienza delle persone con le quali veniamo a contatto, quindi vogliamo far capire che si ritiene inaccettabile il fatto che degli animali vengano rinchiusi, allevati e uccisi per crearne vestiti, nello stesso modo inaccettabile che altri animali vengano rinchiusi, uccisi e fatti nascere soltanto per diventare del cibo o perché vengano condotti su di loro degli esperimenti scientifici. Insomma, la nostra è una lotta che viene portata avanti su diversi fronti, appunto, sia a livello molto pragmatico ma anche a un livello un po' più profondo di ampliamento delle coscienze. Com'è stato per voi fare queste incursioni? È stato difficile? Come vi siete organizzati? Che ostacoli avete incontrato e soprattutto anche che emozioni? Entrare e non poter fare niente per liberare questi animali nel momento. Gli allevamenti di visoni, per quanto siano pochi in Italia, noi ne abbiamo contati 16, ma sicuramente ce ne sarà qualcun altro nascosto. Non hanno bisogno di autorizzazioni particolari, sono sottoposti a dei controlli dell'ASL come tutti gli allevamenti, ma non esiste un registro di questi allevamenti, non esiste un censimento preciso. Questi allevamenti sono molto protetti, sono delle piccole fortezze, proprio perché nel passato degli attivisti anonimi hanno compiuto delle liberazioni che hanno portato anche alla chiusura di allevamenti molto grossi, e questo infatti è stata una cosa che ha messo in crisi questo tipo di allevamento in Italia. Il fatto che siano delle fortezze, che quindi siano circondate dalle reti, piene di allarmi, insomma gli allevatori siano sempre sul chi vive. Poi gli allevatori di visone, capita che anche soltanto se si passa lì vicino in macchina vengano allertati i carabinieri e si venga fermati poi per questo motivo. Quindi entrare di notte in questi allevamenti per filmare quello che succede, per far conoscere a tutti le condizioni in cui questi animali vivono, è stato un lavoro molto duro. La tensione in quei momenti è sempre alle stelle, l'adrenalina è altissima, c'è la paura di essere scoperti, c'è la voglia di fare in fretta, e quindi mentre altre volte in altri tipi di allevamenti io personalmente ad esempio mi sono trovato a realizzare degli incontri con gli animali che erano prigionieri lì sul momento, mi sono invece reso conto che negli allevamenti di visone mi capitava di operare un distacco enorme, e qui era come se non mi rendessi conto di quello che stavo vedendo, volevo solo concludere il mio lavoro il più in fretta possibile. Poi invece le sensazioni e le emozioni sono venute a galla ore e giorni dopo, nella solitudine della mia stanza, ripensando a quei momenti. Ci sono centinaia e centinaia di individui stipati in piccole gabbie, uno di fila all'altro, poi sono allevamenti molto particolari come si può vedere dalle immagini del nostro video, perché appunto sono esposti alle intemperie in modo che il pelo dei visoni diventi più folto con il freddo e che quindi al momento dell'uccisione abbiano il pelo più folto possibile. Ci sono tantissimi individui che gridano disperatamente la propria voglia di libertà. Io ero fermo in quel punto da diverso tempo, proprio perché in quel momento toccava a me controllare le possibili vie da cui sarebbe potuto arrivare l'allevatore. Per la natura di quel posto il punto migliore era proprio in mezzo al capanno, e mi ricordo che con il passare del tempo i visoni, che all'inizio sono terrorizzati dalla vista delle persone quindi si nascondono, vedendomi lì fermo immobile hanno iniziato a incuriosirsi, a venire fuori, a mostrarmi i loro musini, e con il loro corpo mi hanno comunicato una voglia di libertà incredibile, una cosa che non avevo mai visto in nessun altro animale e che mi sono reso conto che non avevo visto mai neanche in me stesso così forte. Con le loro movenze sinuose mi hanno fatto capire che avrebbero compiuto la loro libertà in un semplice balzo, mentre io mi rendo conto che sono nato libero e posso andare dove voglio, fare praticamente quello che voglio, ma non riesco a liberarmi dalle mie schiavitù, dal fatto di essere nato in una società fatta sulla sopraffazione, non riesco a sottrarmi a questa cosa. invece mi sono reso conto che loro, che erano dei piccoli prigionieri inconsapevoli, avrebbero potuto realizzare la loro libertà molto più facilmente di me, molto, in un modo più pieno. È proprio quello che noi vorremmo riuscire profondamente a comunicare con le nostre immagini e con il nostro video. Una consapevolezza che questi animali possono diffondere è veramente profonda, che ci può far davvero riconsiderare il ruolo della nostra specie su questo mondo, ci può far tornare animali fra gli animali. Il titolo della vostra trasmissione, Restiamo Animali. Ci sono altri animali sfruttati e uccisi, come ad esempio mi vengono in mente i maiali, le mucche o le capre o gli agnelli, ad esempio. Guardandoli, anche quando vivono liberi, è un po' come se il loro corpo, la loro presenza fosse fortemente condizionata dall'essere umano, non so come spiegarmi. Si vede guardando un maiale che ha qualcosa di umano, proprio perché sono animali che sono stati forgiati dallo sfruttamento dell'uomo, sono animali che sono stati modellati secondo le nostre esigenze. Di questo in qualche modo risentono ancora gli individui che si trovano su questo pianeta in questo momento, appartenenti a quelle specie. Mentre i visoni, nonostante siano allevati da più di 100 anni, non hanno perso nemmeno un briciolo del loro essere completamente selvatici. Sono animali con i quali è molto più difficile entrare in contatto, anche per noi che siamo così sensibili, proprio perché sono animali totalmente sfuggenti, davvero misteriosi. Per quanto riguarda le reazioni delle persone, è difficile in effetti che un passante empatizzi con un visone, però è molto più facile che sia d'accordo con il nostro punto di vista, che sia d'accordo con questa campagna, proprio perché la maggior parte delle persone non si sente in alcun modo responsabile, direttamente coinvolto di questo massacro. Non entra in gioco un meccanismo di autodifesa come magari può succedere per il consumo di carne. Lorenzo Loprete, Restiamo Animali? Restiamo Animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Quest'anno, a Fa la Cosa Giusta, per la prima volta c'è uno spazio vegano con espositori che spaziano dall'alimentazione all'abbigliamento, gli accessori, le scarpe e anche l'editoria. Qui siamo con Elena Grassi, che è una piccola editrice di Raw, fa tutto lei, ci ha anticipato, in questa casa editrice che si chiama Impronte di Luce e che pubblica testi particolarmente interessanti, direi tutti o quasi tutti tradotti dall'inglese, quindi pescando nella cultura animalista, cruelty free anglosassone. Leggo qualche titolo, uno mi ha incuriosito particolarmente: Little Tyke, la storia vera di una dolce leonessa vegetariana, un caso autentico di una leonessa nata in cattività che ha rifiutato di alimentarsi con la carne. Un altro bel libro è 95, e gli animali da fattoria come non li avete mai visti, storie di animali che vivono in rifugi negli Stati Uniti, e così altri titoli. Chiediamo ad Elena come è nata questa idea di dare vita a una casa editrice di questo tipo. Qual è la tua storia che ti ha portato a questo esito? Ma la storia della casa editrice va in sincronia con la mia personale, perché io ho sempre amato gli animali e quindi nel momento in cui mi sono trovata per varie vicissitudini della mia vita a scegliere di aprire una casa editrice, ovviamente ho scelto di trattare quegli argomenti che più ho sentito miei, più importanti, che sono, rappresentano i miei valori. E quindi, siccome conoscevo già questi titoli perché li avevo letti in lingua originale, avevo anche provato a proporli a qualche editore italiano, ma non avevo avuto successo perché io ero in origine traduttrice, e quindi ho deciso di farlo io mi ritrovo in questa avventura, ecco. Nella tua esplorazione della cultura animalista anglosassone, che esperienza puoi riferire anche in confronto rispetto a quello che c'è in Italia? Ma io conosco soprattutto il mondo degli Stati Uniti, non è che ci ho vissuto molto, li ho visitati ogni tanto, però conosco molte persone là, sono anche, cioè, tutti gli autori dei miei libri io li ho conosciuti via mail, via telefono, via Skype, eccetera. E quindi il mondo americano è molto contraddittorio, hanno sia l'estremo male che l'estremo bene, cioè vanno da un rapporto molto spirituale con gli animali, che magari qui non, ancora non c'è, comunque vanno ancora poco, cioè vendono ancora poco perché è qualcosa che ancora non viene sentito, mentre là invece sono anche dei best seller. Però lo stesso, questo non vuol dire che là per esempio ci sia un grande rispetto dei diritti animali, non è assolutamente vero, anzi in Europa dal punto di vista della difesa dei diritti animali a livello legislativo siamo un po' più avanti. Quindi ci sono molte contraddizioni e quindi bisogna andare un po' a cercare, ecco, le punte più avanzate. C'è un titolo che potremmo consigliare per questo aspetto, che forse è quello più originale, visto con gli occhi italiani, nella spiritualità rispetto al mondo animale? È molto interessante Grazia Animale, che è proprio l'esperienza di una animalista di lunga data, cioè racconta di come attraverso il diventare consapevoli della sofferenza degli animali possiamo trasformare questa consapevolezza, invece che solo un dolore, un peso da portare, in compassione, che diventa un po' un agire attivo sia verso gli animali ma poi anche verso le persone, insomma diventa, questa compassione poi si diffonde nella tua vita, inizia, si chiede anche allora cioè, come posso essere anche compassionevole anche con quelle persone che fanno del male agli animali, invece di attaccarli, di andargli contro, che ottengo solo una controreazione, quindi non ricavo nulla, come faccio a capire, cercare di entrare nella compassione, comprendere queste persone e stimolare in loro la consapevolezza invece di attaccarle? Quindi molto interessante. Una cosa che somiglia anche all'approccio non violento sostenuto da Gandhi, che sosteneva di dover distinguere sempre l'atto dall'attore. Stiamo parlando del libro di Mary Lou Randour, Grazia Animale, di Impronte di Luce. Un'ultima domanda a Elena, raccontaci qualcosa di questo testo, 95, le storie animali liberati nei santuari degli Stati Uniti. È un libro che mi ha colpito molto quando l'ho scoperto, perché rispetto a tutti quei libri che cercano di in qualche modo convincerci a smettere di mangiare carne, diventare vegetariani e poi vegani, che puntano magari sull'aspetto negativo, cioè farci vedere quanto gli animali soffrono, come vengono maltrattati, uccisi, eccetera, questo cerca di farlo da un altro punto di vista, cioè ci fa vedere questi animali che per varie peripezie sono sfuggiti ai macelli e quindi sono stati portati in questi che chiamano santuari per animali, che iniziano ad esserci un po' anche in Italia, ma negli Stati Uniti sono molto diffusi, e ci raccontano la loro storia, proprio sono i volontari stessi che se ne sono presi cura, che hanno fatto queste bellissime fotografie e raccontano la loro storia, ma non tanto la loro storia precedente di come venivano maltrattati eccetera, ma proprio la loro storia nel rifugio, facendoci vedere che questi animali hanno una loro personalità, una loro individualità, e che si creano amicizie, relazioni complesse tra i vari animali, e quindi ci fanno vedere che proprio questi animali hanno un'anima, esattamente come i nostri cani e gatti, cioè che noi ci viene spontaneo vedere l'animale, il cane e il gatto come un animale d'affezione e di volergli bene, e ci fanno vedere che anche una mucca, un coniglio, una capra, una pecora, eccetera, se gli diamo la possibilità di esprimersi completamente liberamente, anche loro mostrano parti di sé che non siamo abituati a vedere. E quindi per questo che il sottotitolo del libro è Come non li avete mai visti, perché non siamo abituati a vederli in questo modo, no? Elena Grassi e Restiamo Animali? Restiamo Animali. Yeah. While I wait, how much longer? And still I get no answer. I call your name, yeah. I call your name. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. guarda il bel pinguino innamorato col colletto duro con il pinguino. Ciao a tutti. Visto che ormai siamo vicini alla Pasqua, oggi vi do qualche consiglio per preparare un delizioso e variegato pranzo pasquale, rigorosamente vegano, goloso e abbondante. Iniziamo dagli antipasti. Io credo che un assortimento di torte salate sia l'ideale, perché le potete preparare in anticipo con gli ingredienti che più preferite. Magari date la precedenza alle verdure di stagione, più sane ed economiche. Qualche esempio: una torta di spinaci e bietole, di carciofi e tofu, di radicchio, di porri, di funghi e patate, insomma, sbizzarritevi. Se avete poco tempo potete usare le basi di pasta sfoglia già pronte, non sono il massimo della salute, ma almeno sono vegan. Come primo piatto io quest'anno cucinerò delle lasagne agli asparagi e nocciole. In pratica preparerò le sfoglie di pasta fresca fatta con semola, acqua e zafferano per colorarle di giallo. Una besciamella un po' liquida fatta con latte di soia. Poi cucinerò in padella gli asparagi. Infine assemblerò il piatto, quindi strati di sfoglie, besciamella, asparagi, fino a terminare gli ingredienti. E concluderò con un'abbondante spolverata di nocciole tostate spezzettate. Poi in forno a gratinare per una mezz'oretta e le lasagne sono pronte. Se non volete avventurarvi nella lasagna, anche con un risotto farete un'ottima figura. Magari potete farlo con verdure tutte verdi, piselli, porri, spinaci e qualche cucchiaiata di panna di avena o di soia alla fine per renderlo bello cremoso. Come secondo, perché non azzardare una rivisitazione vegan di un celebre piatto carnivoro, il vitello tonnato? I vegani scherzosamente lo chiamano vitello tonnato di vitello e tonno felici, perché degli animali si usa solo il nome. Come si prepara? Beh, facilissimo. Preparate una cremina frullando una lattina di ceci con succo di limone, senape dolce, capperi, latte di soia, sale, pepe e un po' d'olio. Scottate in padella delle fettine sottili di seitan. Una volta raffreddate, le disponete su un piatto da portata e le spalmate completamente di salsa. Guarnite con qualche cappero e fettine di limone e fate riposare in frigo. Delizioso! Accompagnate poi il secondo con insalate miste, oppure spinaci saltate in padella, scarola ripassata con pino all'uvetta. Altrimenti, se siete molto volenterosi, sono deliziosi i cuori di carciofi fritti. Come dessert, invece di un solo dolce, provate ad offrire un assortimento di piccola pasticceria vegan. Muffin, cupcake, biscottini, praline e piccoli trancetti di torte. Vedrete che alla fine nessuno rimpiangerà l'agnello o il ragù. Io vi saluto, vi auguro di passare una Pasqua serena, pacifica e con le persone che amate. Ciao, alla prossima! Troverete sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com naturalmente i link ai video delle investigazioni realizzate da Essere Animali e Nemesi Animale, il link anche alla casa editrice Impronte di Luce che vi abbiamo presentato quest'oggi e poi tutti i materiali relativi alla campagna contro la provincia di Siena e la sua decisione di autorizzare la caccia alla volpe a partire dal 1 aprile. Una campagna alla quale vi chiediamo di aderire, di sostenere con tutte le vostre forze. E non dimenticate di seguirci su Twitter. Appuntamento allora giovedì prossimo per la puntata breve di 5 minuti alle 9.50 e domenica per la consueta mezz'ora con Restiamo Animali. Per contattarci, restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.